State ascoltando Radio Cina Internazionale, amici ascoltatori, ben ritrovati, sono Nin. 400 anni fa, il gesuita italiano Matteo Ricci e lo scienziato cinese Xu Guangqi hanno cooperato nella traduzione degli elementi di Euclide. 400 anni dopo, il 5 aprile 2008, il giorno in cui i cinesi commemorano i loro morti, un discendente di Xu Guangqi, il professor Ricci, discendente della famiglia di Matteo Ricci, è il discendente di Sabatino de Ursis, assistente di Matteo Ricci, Paolo Sabatini, al tempo addetto culturale al Consolato d'Italia a Shanghai. Ci sono incontrati a casa di Sabatini a Shanghai, facendo emergere le tracce cinesi ormai penetrate nel loro sangue e trovando con interesse che la storia si ripete. L'angolo retto e l'angolo acuto sono termini geometrici ben noti agli allievi cinesi delle elementari. Qual è la loro origine? Chi ha comunicato ai cinesi questi concetti? È stato Xu Guangqi, insieme al missionario italiano Matteo Ricci, che 400 anni fa hanno tradotto insieme gli elementi di Euclide. Io ci penserei, bambini! Il professor Ricci lavora all'Università degli Studi di Macerata, che ha una storia di più di 700 anni. Ogni giorno, per raggiungerla, egli deve percorrere una strada intitolata al suo antenato via Matteo Ricci. Lo studio del professor Ricci, oltre ad insegnare teorie della comunicazione, egli gira anche dei documentari. Professore, per l'archivio della biblioteca interna della regione Frau, come siete rimasti d'accordo? Adesso dobbiamo fare delle registrazioni su tutti. Poi dobbiamo fare anche il montaggio e poi le copertine. Ah, ok. Aula della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Macerata. Il contenuto della lezione di oggi del professor Ricci è molto speciale. Lo scorso novembre sono stato invitato in Cina, a Shanghai, per un convegno internazionale. Questo convegno era dedicato al 400° anniversario della traduzione della geometria euclidea da parte di Matteo Ricci e Xu Guangqi. E voi vi chiederete, ma che c'entra il professor Ricci con questo evento? Il professor Ricci è andato a Shanghai a rappresentare l'antica famiglia Ricci di Macerata. Durante il convegno ho incontrato il discendente di Xu Guangqi. Xu Guangqi è stato il rappresentante della scienza cinese che appunto con Matteo Ricci hanno svolto questa traduzione da un testo europeo, un testo quindi scritto in latino, e nella versione cinese, la geometria che oggi anche noi studiamo normalmente e che studiano appunto i cinesi. Nel 1582 Matteo Ricci raggiunse la Cina senza più fare ritorno nella lontana Italia. Egli risiedette a lungo a Pechino, dove morì nell'anno 1610. Venne seppellito in un terreno concesso espressamente dall'imperatore Ming a Erligou. Verso la fine della vita di Ricci, il Vaticano inviò il missionario Sabatino de Ursis come suo assistente, per continuare il lavoro con Xu Guangqi. Oggi, 400 anni dopo, i discendenti di Xu Guangqi e di Matteo Ricci si sono riuniti nella residenza di Shanghai di Paolo Sabatini, addetto culturale del Consolato Generale d'Italia a Shanghai, è discendente di Sabatino de Ursis. Paolo Sabatini ha detto: benvenuti. Il mio cinese non è granché, però sto studiando la lingua. Matteo Ricci, Sabatino de Ursis e Su Guanxi parlavano cinese, quindi anch'io voglio farlo. Dobbiamo dare un nome cinese al professor Ricci. Siamo in Cina, quindi un nome cinese è molto importante. Il professor Ricci ha detto: penso che questo è uno dei giorni più belli della mia vita. Ho realizzato un grande sogno di visitare la Cina e di ritrovare i discendenti degli amici di padre Matteo Ricci. Sì, Matteo Ricci ha impiegato anni per arrivare fino in Cina. Anni. Dall'aereo, guardando dal finestrino, pensavo Matteo Ricci o nella barca o a cavallo che veniva verso. Paolo Sabatini. Vogliamo invitare il signor Xu a Macerata. Vogliamo fare un film con tanti episodi su Macerata e la sua terra, con il signor Xu che visita la biblioteca di Matteo Ricci, visita le industrie, visita i luoghi importanti. Sì, film documentario. E poi il professor Ricci è professore di comunicazione, quindi lui è veramente la persona più appropriata per fare un film. E allora adesso abbiamo un grande progetto che dobbiamo assolutamente realizzare. Li Tiankang, professore della facoltà di filosofia dell'Università Fudan di Shanghai, ha detto: Nel 2005 a Macerata abbiamo girato il documentario su Guanxi. Secondo me bisognerebbe anche girarne uno su Matteo Ricci, da abbinare. Infatti Matteo Ricci ha fatto da ponte fra la Cina e l'Occidente. Ciao. Okay. Paolo Sabatini. I did myself this tea. I hope that this could be good for Chinese taste. Just I am pouring it myself. Okay. Ho preparato di persona questo tè e spero che piaccia ai cinesi. Ora ve lo verso, favorite. Questa volta sono a Shanghai in veste di diplomatico e provo un senso di ritorno a casa. Infatti una ventina di anni fa sono stato diplomatico a Beijing e conosco bene la Cina. Inoltre sin dall'infanzia ho ascoltato molte leggende e storie sulla Cina da mio padre e dal nonno. Però conoscevo dei risultati, ma non il loro perché. Per esempio, quanto all'acqua, sappiamo che gli italiani bevono acqua fredda, aggiungendo anche del ghiaccio. Tuttavia, per tradizione, nella nostra famiglia, sia nel corso dei pasti che negli altri momenti, si beve acqua calda. All'inizio pensavo che fosse solo un'abitudine, però ho trovato che oltre alla nostra famiglia Sabatini, anche la famiglia del professor Ricci beve acqua calda. Forse in tutta Italia solo queste due famiglie bevono acqua calda. Quando in seguito sono andato a Beijing, ho trovato che tutti i cinesi bevono acqua calda. Allora ho cominciato a riflettere. Il consumo di acqua calda da parte delle nostre due famiglie si deve forse all'incontro predestinato dei nostri avi con la Cina, per cui questa abitudine potrebbe essere stata portata nelle nostre famiglie all'epoca di Matteo Ricci e Sabatino de Ursis. Now it's becoming very popular, and I know that the Italian winemakers are very, very hopeful. Sabatini 先生刚才说了，这是真正的意大利的葡萄酒，而且。Xue Liyong, ricercatore del Museo di Storia di Shanghai, ha detto: ho già visto delle scene di brindisi. Noi cinesi diciamo Ganpei. Ho sentito dire che in Italia si dice Cin Cin. Paolo Sabatini ha risposto: actually, Limado was writing letters to his Italian counterparts and the family. È vero, quando Matteo Ricci risiedeva in Cina, scrisse molte lettere sulla cultura cinese, ricordando fra l'altro che quando era invitato a Beijing, i cinesi erano molto cortesi, invitandolo ad entrare in casa con Cin Cin, ossia entri, prego, ed offrendogli una tazza di tè caldo. Al tempo forse gli italiani non capirono il vero significato del cin cin delle lettere di Matteo Ricci, riferito all'invito ad entrare in casa, pensando invece che fosse il suono dei bicchieri che si toccano, per cui in seguito in Italia è nata l'abitudine di brindare dicendo cin cin. Ah, cin cin. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Paolo Sabatini ha detto inoltre che nel corso del brindisi si fanno toccare i bicchieri, che emettono un suono simile a cin cin. Una cosa interessante è che questo tipo di cultura potrebbe provenire da Xu Guangqi ed essere stato trasmesso da Matteo Ricci agli italiani, che lo considerano un'abitudine. Ora questa abitudine si è diffusa in tutto il mondo ed anche gli americani ritengono che si tratti di una forma tradizionale di brindisi degli italiani. Sabatini ha detto che per l'Expo Mondiale di Shanghai del 2010 l'Italia costruirà sicuramente un suo padiglione ed il piano architettonico è sicuramente un importante argomento. La moglie di Sabatini è proprio il primo rappresentante italiano all'Expo di Shanghai. Sabatini ha detto: Now there is a very exciting opportunity for the architecture. Guardando la storia, questa si evolve, ma si ripete anche. In passato gli italiani hanno aiutato i cinesi a creare il giardino imperiale Yuan Ming Yuan e forse anche oggi nell'architettura dell'Expo di Shanghai potremmo di nuovo vedere le concezioni degli architetti italiani. Sabatini ha portato apposta dall'Italia un pianoforte a coda bianco come la neve che una volta aperto ha rivelato i dipinti ad olio policromi del coperchio eseguiti da lui. Lo strato di nuvole, benché spesso, non riesce a nascondere il cielo azzurro. L'ultimo programma della riunione dei discendenti delle tre famiglie è stata interpretazione di Paolo Sabatini del motivo per pianoforte, dedicato da Matteo Ricci all'imperatore Ming Wanli. Nel XVII secolo, Matteo Ricci ha portato per primo il clavicembalo in Cina, presentando nel contempo all'Occidente l'opera e la musica rituale cinese. Recentemente degli studiosi hanno trovato che nel repertorio del coro della chiesa Shishiku di Beijing figura un motivo intitolato «Il pastorello sul monte», che integra toni sia di Beijing che barocchi, il cui autore è Matteo Ricci. Matteo Ricci, come pioniere della presentazione in Oriente delle conoscenze dell'Occidente, ha dato grandi contributi agli scambi culturali tra Oriente ed Occidente. Quindi il popolo cinese lo ricorderà sempre con riconoscenza.